Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Federico. Come stai? Bene, bene, sono fresco di ritorno da Lucca Comics. E tu da questa freschezza oggi l'hai portata in studio perché insomma hai dato un po' l'ispirazione di questa puntata, un trionfo, no? A parte il tuo trionfo personale, ma tantissima gente di tutti i tipi. Lucca Comics è un evento che dal di fuori non si può spiegare, cioè considera che Lucca è una città che all'interno delle sue mura mediamente fa 10.000 abitanti. Nei giorni della fiera di Lucca, nei 5 giorni della fiera, transitano 800.000 persone. Ecco, quindi questo già dà l'idea, e tantissimi padri e tantissime famiglie. Noi ci concentriamo, come ben sapete, nel rapporto tra padri e figli. Tu sei andato con la tua figlia più grande? Assolutamente, è vestita da Bellatrix Lestrange, il personaggio di Harry Potter. Perché lì non puoi andare vestito normalmente, giusto? Puoi andare vestito normalmente, sì, però diciamo che le fiere sono animate anche dai cosiddetti cosplayer, mm-hmm. cioè questi ragazzi, questi anche adulti, che si vestono, si travestono dai loro personaggi preferiti. Oggi parleremo di quelle passioni, di qual è la cosa che vi piace fare insieme a vostro figlio o a vostra figlia, qual è la cosa che unisce, insomma, padri e figli. Che non è, insomma, un tema facile. Per esempio, io odio la pesca, cioè non mi piace, mi annoia più che odio, mi annoia pescare, e ai miei figli piace pescare. Bello, vero? Sei fregato. Io ho fatto 8.000 sport nella mia vita, non ho mai giocato a calcio, perché insomma è lo sport che forse mi piace di meno. Mio figlio ha scelto di giocare a calcio, quando la passione esatto. divide invece che il contrappasso, che un po' ti chiedi ma proprio la pesca dovevi scegliere, cioè tra le tante cose che invece probabilmente può essere anche una risposta, forse loro captano che quella cosa lì un po' non ti piace, quindi considerano che è uno spazio loro da occupare, certo. Può essere, no? È possibile. Allora, oggi chiediamo a voi cosa vi piace fare con vostro figlio o vostra figlia, cose leggere, cose divertenti, quella cosa insomma che vi fa ridere insieme, che vi fa passare tempo insieme su quella passione comune. 349-238-6666, se volete scrivercelo via SMS o via WhatsApp, oppure sulla nostra pagina Facebook, la bacheca è aperta e anche lì potete lasciare i vostri messaggi. Intanto abbiamo parlato di cosplayer e quindi andiamo a vedere una famiglia in costume. Ho proprio chiesto a Matteo, dai, fammi un casting, vai in giro per Lucca Comics, trova una famiglia dove appunto gli unisce la passione per il travestimento. Allora, diamo una definizione, cioè cosplayer è colui il quale si veste da... Allora, cosplayer è la contrattura di costume player, cioè persona che si traveste da uno dei suoi personaggi amati, dei fumetti o dei videogiochi. Mm-hmm, quindi cerchi di avere lo stesso vestito, le stesse sembianze. Sì, riproduci le fattezze, è una vera e propria opera, diciamo, che si fa su se stessi, di interpretazione attoriale in un certo senso, e loro girano per le vie di Lucca o delle altre fiere del fumetto, vengono fermati dai fan che li fotografano o si fanno fotografie insieme a loro. Okay. E hai trovato delle famiglie dove erano tutti cosplayer? Sì, certo, ho trovato due famiglie che vivevano questa passione in comune. La cosa mi ha colpito molto, devo dire, perché di solito i cosplayer del mondo adulto vengono guardati un po' come queste persone un po' infantili, no? Mm-hmm. Questi ragazzi che si guardano un po' con sospetto, come dire, ma perché alla tua fanno età questa... vai ancora esatto. in giro vestito da Heidi. E invece mi ha colpito il fatto che queste famiglie le vivessero questa esperienza insieme. Con noi c'è Francesco, che credo sia uno dei papà. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti. Ciao, benvenuto ai Padri Eterni. Ciao Francesco, ciao. Credo siate in macchina, forse sulla strada del ritorno, giusto? Sì, sto rientrando a casa, noi siamo andati i primi due giorni dell'evento, anche perché il tempo era particolarmente buono. Oggi siamo riusciti là, il tempo non è granché. Esatto. Ma siete ancora vestiti in questo momento? No, assolutamente no. Noi andiamo vestiti, è un'usanza che noi andiamo, sono già un paio d'anni che andiamo, perché abbiamo degli amici, Luca, con cui credo che parlerete dopo, che in pratica vivono a Tirrenia, vicino Pisa, e ogni anno noi andiamo a trovar loro. primo giorno andiamo vestiti a Lucca Comics, il secondo giorno andiamo a passeggiare per andare a vedere cose che vogliono vedere in Canada. Certo, quindi insomma una doppia versione, però Francesco, è una passione di famiglia, cioè tutti insieme giocate al cosplayer. Vabbè, andare a Lucca Comics senza essere vestiti è come andare una veste in maschera a carnevale in smoking, cioè vabbè, forse potrebbe essere un travestimento anche lo smoking di questi tempi, però il discorso è che il piacere è farlo in maniera completa, cioè immergersi nell'evento, ecco. Ok, da cosa vi vestite? Allora, quest'anno abbiamo fatto l'equipaggio, quattro personaggi dell'equipaggio di Star Trek New Generation. Perfetto. Sì. In pratica c'ero io che facevo Picard, anche perché ho la fortuna di essere pelato di base, quindi non ho avuto bisogno di alzarmi per fare il personaggio. Luca da Data, con tanto di lentine colorate che passavano agli occhi quella particolare tonalità, e gli altri, e le due nostre mogli vestite da due personaggi femminili del sempre di quella serie. Okay. Poi c'erano i figli che avevano altri vestiti. Sì, le bambine erano vestite da altro, però ricordo, vero? Sì, questa... allora mia figlia piccola e la loro figlia piccola, cioè Francesca e Federica, erano vestiti da due personaggi, Mario e Luigi, due personaggi del gioco della Nintendo, Mario Bros. Super Mario Bros. Sì, no, questo per dire che i figli, anche quando le passioni sono messe in comune, comunque hanno necessità di segnare una distanza. Assolutamente. Francesco, ma con che occhi ti guardano i tuoi figli quando arrivi vestito da cosplayer? Ridono. Fondamentalmente ridono. Uh-huh. E io rido guardando loro e molto spesso rido anche guardando me. Vabbè, con un po' di ironia, no? Nella vita ci vuole un po' di ironia, no? Insomma, quel sano distacco, però insomma è anche quella bella complicità, no? Sono quelle cose dove si ride e si va. Sì, la passione comune c'è, nel senso che allora io ho 52 anni oramai, però io sono per tanti anni sono stato un net gamer, non so se sapete di cosa si tratta. In pratica giocavamo a squadre, ora stanno dicendo addirittura che vogliono farli entrare alle Olimpiadi. Giocavo a squadre con dei gruppi di amici, a dei giochi in prima persona, e quindi è una cosa che facevo negli anni 90. Quindi diciamo che avevo questa passione un poco per i videogiochi. Le mie figlie hanno preso da me la passione un po' per l'elettronica, gioia e dolore, perché da una parte fa piacere, ne hanno parlato nella vostra trasmissione precedente, da una parte fa piacere dei loro successi, dall'altra parte di cercare un po' di limitare i fenomeni perché sennò diventano troppo invasivi. E quindi abbiamo questa passione per i fumetti, per la Marvel. Quel mondo lì, e l'avete anche esternato a Lucca. E lo esterniamo, poi c'è Media Grande che è anche una disegnatrice di fumetti. Quindi ci sono i vari livelli coinvolti. Grazie Francesco per la tua testimonianza. Ciao e buon viaggio. Ti ringrazio. Ciao Francesco. Buona giornata. Noi ci fermiamo, il traffico, poi saremo qui con i Padri Eterni e parleremo proprio di videogames. OneExpress.it Pallet Network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Padri Eterni. Riprendiamo con Super Mario Bros. In questa puntata dedicata alle passioni. Qual è la cosa che proprio vi piace fare, papà, con i vostri figli? 349-238-6666. Se per i vostri messaggi via SMS o via WhatsApp, oppure nella nostra pagina Facebook, Federico Taddia, Matteo Bussola. Matteo, a Lucca Games appunto parlavamo di fumetti, giochi e anche videogiochi, no? Sì, assolutamente. Tra l'altro ci tenevo a fare una specificazione rispetto a quanto detto da Francesco prima, cioè non è che a Lucca Comics ci devi andare travestito. Questo lo dico perché grazie anche ai cosplayer, gli abitanti di Lucca chiamano i giorni della fiera come li definiscono l'arrivo dei comici, dalla parola inglese comics, no? Agevolati in questo dal fatto che vedono la città animata in quei giorni da queste persone travestite che sono appassionati, ma in realtà Lucca è una fiera di fumetto fatta da autori di fumetto soprattutto, quindi una fiera anche professionale e anche da appunto i videogiochi, i giochi di ruolo, insomma chi più ne ha. C'è questa doppia dinamica però insomma che è già venuta fuori da questi primi minuti di puntata. C'è un qualcosa che unisce ed è un qualcosa che divide. Cioè, è una macro passione comune, però dove ci sono dei distinguo ben netti dati anche dalla generazione. Però noi papà ad un certo punto non dovremmo fare un passo indietro, appunto, dal mascherarci, dai fumetti, dal videogioco? Cosa dici? Ma io credo che in realtà dentro di noi lo facciamo, insomma, un passo indietro. Poi, sai, io questa cosa dei fumetti è una cosa bizzarra, perché spesso funziona, secondo me, proprio da ponte generazionale. E al giorno d'oggi funzionano, a maggior ragione, da ponte generazionale, forse proprio i videogiochi. In realtà credo che tutti, no, ci confrontiamo con quel luogo comune che vede ancora i fumetti o i videogiochi come cose da bambini, quindi in un certo senso come cose da persone infantili. In realtà è appunto un luogo comune, ma non rappresenta la realtà. C'è un ponte generazionale di che tipo? Lo chiediamo a Stefano Triberti, che è ricercatore presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna psicologia della comunicazione. È stato coautore del testo Psicologia dei videogiochi, come i mondi virtuali influenzano mente e comportamento, per Apogeo. Ciao Stefano, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno. Allora, i videogiochi sono un ponte generazionale? Sì, i videogiochi possono essere, tra le altre cose, anche un ponte generazionale. C'è una linea di ricerca che, diciamo, continua, si evolve fin dagli anni 90, che ci fa vedere che il videogioco può essere utilizzato per promuovere, per trasformare, per vivere in modo diverso anche le relazioni con i propri figli, poi facendo dei distingui tra bambini e adolescenti, che hanno degli approcci anche molto diversi. Sostanzialmente una linea di ricerca che è iniziata prima cercando di capire se i videogiochi potevano aiutare a far fare i compiti, alternandoli coi compiti. Okay. ci si è accorti che la cosa non funzionava granché per i compiti, ma che effettivamente dava delle occasioni di divertimento e di approfondimento del rapporto. Ma quindi aiuta il dialogo tra padre e figlio, giocare un videogioco insieme è utile? Dunque, direi migliorare il dialogo è forse un tema che possiamo associare più al momento dell'adolescenza, e può succedere. Cioè, da una parte, come dicevate poco fa, bisogna un po' farsi da parte, soprattutto con l'adolescente, che di solito nelle sue passioni vuole anche essere abbastanza lasciato in pace, non apprezza intrusioni dei genitori. D'altra parte, ci sono delle situazioni in cui il dialogo con l'adolescente è difficile. Ci si sta a tavola con l'adolescente che non parla, non vuole raccontare di sé, ma se si è impegnati in un'attività interattiva come il videogioco, se si è concentrati su qualcosa che diverte, il peso emotivo, diciamo, della relazione si abbassa. Mm-hmm. E ci sono dati di ricerca che ci dicono che anche l'adolescente più chiuso si può aprire in delle condizioni di questo tipo. Questo è un grande alibi. Dai papà, giochiamo al videogioco, così parliamo un po'. Sai, esatto. Quanto... è un alibi per i papà. È anche per i papà, infatti. Questo è vero, probabilmente non aiuta solo l'adolescente, aiuuta anche il papà, no? Che, assolutamente. Cioè, scende su un campo un po' più facile, forse con meno barriere, un po' meno impegnativo, e quindi diventa uno spazio di incontro. Assolutamente, sì. Diciamo, anche a livelli più sofisticati, alcuni tipi di videogiochi permettono di immedesimarsi in storie, in personaggi, di fare esperienza insieme di avventure che necessariamente nel mondo reale non è possibile fare. Quindi, se qui va anche a personalità, diciamo, se sia il figlio che il genitore hanno una certa predisposizione a, diciamo, pure al mondo della fantasia, dell'immaginazione, è una situazione che permette di immedesimarsi in modo simulato in dei ruoli alternativi, e quindi mettere alla prova il rapporto in modi innovativi, sostanzialmente. Ma tra l'altro, guarda, io porto una testimonianza personale a proposito del rapporto con i videogiochi, nel senso che le mie figlie si sono installate sull'iPad che io uso per lavoro un gioco che si chiama My Talking Angela. In sostanza è una gatta che bisogna lavare, no? La quale bisogna dare da mangiare, bisogna prendersene cura, e i miei viaggi in treno da allora sono costellati di puro terrore, perché mi arrivano questi messaggi, no, con la gatta che mi dice dammi da mangiare, lavami, e io a volte me ne dimentico, e quando torno dai miei viaggi la prima domanda che mi fanno le mie figlie non è: ciao papà, come stai? Ci hai portato qualcosa? Bentornato? No, la prima domanda è: come sta la gatta? Davvero, Carmelo è il nostro tecnico che sorride. Hai lo stesso problema, Carmelo, anche tu, no? È uguale. Ma vedi che ecco, diventa un'occasione originale di comunicazione. Tra l'altro c'è anche tutto il tema legato proprio ai videogiochi mobile e dei social network, che di solito hanno un target principalmente femminile e di casual gaming, del miglioramento delle relazioni anche tra i nipoti e i nonni. Mm-hmm. Per esempio, perché la nipotina magari invita la nonna inizialmente per ragioni utilitaristiche, perché attraverso invitando persone al gioco fa punti e dice la nonna non ha niente da fare su Facebook, la invito a giocare, ma poi questo la nonna effettivamente si mette a giocare e questa diventa un'occasione di conversazione tra due generazioni che possono far fatica a comunicare, quindi c'è anche questo fenomeno che sta emergendo. Grazie davvero Stefano per insomma averci dato qualche bellissimo spunto di riflessione. Stefano Triberti, ricordiamo ancora il titolo del testo: Psicologia dei videogiochi, come i mondi virtuali influenzano mente e comportamento. Ciao e buona domenica. Grazie altrettanto. Tutto quello che mi passa per la testa sembra avere senso quando penso che la vita forse un senso non ce l'ha. Certo non è bello quando guardo il mio castello in aria e penso che un castello così bello sulla terra non ci sta. La mia età non è questa, è almeno la metà. Passami il mantello nero, la mia spada da torero, oggi salvo il mondo intero con un gioco di magia. Non sarò mai abbastanza cinico da smettere di credere che il mondo possa essere migliore di così. E c'è anche chi, in quanto padre, si trova a ideare, a progettare videogiochi insieme al proprio figlio. Diamo il benvenuto a Stefano Righi Riva, un giornalista in pensione, coautore di un videogioco che appunto ha realizzato insieme al figlio sviluppatore di videogames. Ciao Stefano, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Allora, ti sei trovato a vivere questa curiosa avventura. Com'è stato mettersi lì insieme al proprio figlio per realizzare un videogioco? Che era una passione comune? No, non è una passione comune. Io ho sempre accettato la sua passione, la seguo da lontano. Quando mi chiede delle cose, lui sa che cosa io sono bravo. Mm-hmm. Mi chiede le cose, gliele faccio volentieri. Ho capito. È successo diverse volte ormai. Gli ho fatto qualche testo, per un gioco politico gli ho fatto il consulente, e gli ho fatto queste canzoni per l'ultimo gioco, era ambientato negli anni 70, lui dice forse tu ti ricordi com'era, proviamo. Ah, quindi fornisci i contenuti, cioè lui ha l'idea appunto, l'idea giovane diciamo, e tu arrivi e gli fornisci un po' di spunti, un po' di contenuti. Sì, su richiesta. E poi dopo discutiamo un po' perché non gli piace mai, poi troviamo un compromesso, poi alla fine gli piace. Ascolta, partendo dal videogioco, è un qualcosa che vi ha unito, immagino. Ma noi siamo stati uniti sempre. Io ho sempre avuto un buon rapporto con lui da quando era ragazzino. Ha sempre ascoltato le mie storie, era curioso. Non è mai stato in cuffia. Ah, perché tu facevi... non è mai stato in cuffia? In che senso? Nel senso che parlava sempre con me quando viaggiavamo in macchina. Ah, okay. Chiacchieravamo due ore. Ok. Quindi insomma c'era il dialogo alla base. Santaragione.com è il sito della casa di produzione fondata da Pietro, appunto tuo figlio, insieme ad altri due giovani colleghi. Ma poi ci giochi a questi videogiochi? Pochino, perché non ho le abilità, faccio un po' fatica. E mi faccio vedere da lui com'è, quando l'ha fatto, però non sono un videogiocatore. Stefano, tra l'altro la cosa che adoro io di questa storia è che leggo che tu non volevi che Pietro facesse il giornalista e quindi hai accolto di buon grado invece questo suo desiderio di fare i videogiochi. Ma nemmeno questo, perché a me non piacciono i figli che fanno lo stesso mestiere dei padri, ma lui ancora meno, quindi non ha mai pensato di fare i videogiochi, è sempre stato geloso della sua autonomia. Perfetto. Grazie, ciao e buona domenica. Arrivederci. Buona domenica, Stefano. Ci fermiamo con i Padri Eterni al momento della pubblicità, poi torniamo subito dopo in diretta. Vi ricordo, per i vostri messaggi, se avete voglia di raccontarci qual è la passione che vi unisce ai vostri figli, qual è quella cosa che vi piace proprio un sacco fare insieme, il numero è il 349-238-6666. Padri Eterni. Ciao, mi chiamo Francesco, ho 11 anni e papà vuole dire che devono stare più tempo con i loro figli e non lasciare troppo tempo al cellulare da soli, fare con loro i compiti, giocare con loro e ascoltarli nelle difficoltà. Quando sono tristi, di fare ridere e divertire. Passare il tempo insieme, in vacanza, giocando, portarli al museo, allo stadio, in montagna, al mare. E questo è Francesco, è il momento del consiglio ai papà. È un po' esigente Francesco, insomma, ha fatto un lungo elenco di cose. Insomma, più che un consiglio direi che è una richiesta esplicita ai padri di fare i padri. Poi quando ha detto non vorrei, insomma, troppo tempo sul cellulare da soli questi papà, sì. Insomma, questi sono i nostri ragazzi, le nostre ragazze che ci guardano. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi vocali se volete dare un consiglio ai papà, non al vostro papà, ai papà in generale. Oppure oggi ci potete raccontare qual è la cosa voi padri che amate fare con i vostri figli, qual è la passione che vi unisce. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. Per esempio Flora, che ha 2 anni, e papà Johnny ci scrive: papà, amano giocare insieme con le tempere. Ecco, questa è una cosa per esempio che vedo che hai ti sì, piace. Sì. Ecco. Anch'io amo giocare insieme con le tempere, soprattutto sul muro del soggiorno. Questo bellissimo foglio bianco sempre a disposizione. Gli 883 con l'uomo ragno per introdurre i prossimi ospiti. Lo so che sei un po' emozionato, Matteo. Allora sono emozionato perché parliamo di fumetti. Non sono emozionato nel senso che poi sono due amici gli ospiti che sto per presentare. E parleremo con Claudio Villa e il figlio Marco Villa, che sono una coppia, appunto, padre e figlio fumettisti. E Claudio, per gli appassionati, non ha bisogno di presentazioni, nel senso che è uno dei più grandi disegnatori italiani di sempre. E per farvi capire, è niente meno che il copertinista di Tex. Ecco. Ma ha lavorato anche per la Marvel. Nel suo caso forse la sigla più appropriata sarebbe stata "Hanno ucciso Capitan America", visto che lui ne ha disegnato una storia. E il figlio Marco Villa, giovanissimo, 25 anni, già al lavoro per la Sergio Bonelli Editore, lavora sulla testata Dampir, che è una delle più vendute. E quindi credo che li abbiamo. Sono qua con noi, ciao Claudio, ciao Marco, ciao Claudio. Pronto? Claudio? Marco? Aspetta che sono caduti, so che anche loro erano in viaggio in ritorno da Lucca, adesso cerchiamo di ribeccarli al telefono. Intanto vi ricordo ancora il 349-238-6666 per i vostri messaggi, se avete voglia di raccontarci, di dirci qual è la passione che vi unisce padri e figli. In questo caso sicuramente è il fumetto che, al di là della passione, è diventata anche una professione comune. Cercheremo di capire questo contagio, come è avvenuto, se è avvenuto per osmosi. Le tue figlie, per esempio, amano già i fumetti? Le mie figlie amano i fumetti, amano molto disegnare. Io non ho mai fatto alcuna pressione in questo senso, e quindi secondo me è vero che questa cosa per osmosi passa, perché altrimenti non me la spiego in nessun'altra maniera, insomma. Nel caso di Claudio e di Marco, era una delle domande proprio che avrei voluto... Eccoli lì, sono qua con noi. Ciao Claudio! Eccomi qua. Ciao Claudio, ciao, ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo fatto questa bella presentazione, sappiamo chi siete, ma volevamo capire cosa è successo. Cioè, una passione in comune che è diventata anche una professione in comune. Cioè, a tuo figlio hai fatto solo vedere copertine di fumetti e appunto non ha potuto fare altro che mettersi a disegnare anche lui? Io mi ricordo quando era piccolo e frequentava lo studio, perché in qualche modo, avendo un papà che era sempre in casa, prima di andare a dormire apriva l'armadio e si metteva seduto a gambe incrociate a guardare le pile dei fumetti che gli stavano davanti, sceglieva accuratamente quelli che voleva leggere e poi se ne andava a nanna leggendo fumetti, e chiaramente ha cominciato a disegnare fin da piccolo, sempre meglio, e io ho visto crescere in casa questo bel fiorellino che adesso è grande e fa la mia stessa professione. Sì, ma Claudio, tu lo hai mai, come dire, esplicitamente spinto in questa direzione? Nel senso, te lo chiedo perché poi, no, il rapporto padre-figlio già solitamente è problematico, e di solito questa cosa dei fumetti dai padri tradizionali, chiamiamoli così, non viene vista molto di buon occhio. E tu come ti sei comportato con Marco? Cioè, hai visto questa cosa nascere, sbocciare spontaneamente, o lo hai incoraggiato a un certo punto? Io l'ho vista nascere, ho sempre pensato che se c'è un talento è bene che i ragazzi lo possano esprimere, esplicitare, esplorare, ecco. E se poi questo può diventare una ragione di vita, un lavoro che piace, è molto meglio che un lavoro che si fa fatica a fare. Le cose sono arrivate da sole, porta dopo porta si sono aperte, e poi c'è stata la sua richiesta di voler proprio disegnare fumetti. E a questo punto, visto che l'avevo fatto anch'io, visto che anch'io avevo avuto una famiglia che mi aveva supportato e non aveva detto ma sei matto, vai a fare un lavoro normale, vai a lavorare piuttosto, ecco, anch'io ho fatto lo stesso con lui. In pratica ho cercato per quanto possibile di aiutarlo a trovare una forma per potersi presentare adeguatamente alle case editrici, e poi il resto lo sta facendo lui, la sua strada. Adesso parliamo anche con Marco, però Claudio, un'ultima domanda per te, ma sì? E poi, avevi altre passioni che condividevi poi con lui, o questo campo assorbiva tutto anche il campo ludico, appunto, nella relazione con tuo figlio? No, ci sono anche i videogiochi, diciamo, okay, che ci fanno parlare molto anche adesso. Vi passo Marco. Grazie Claudio, ciao. Sì, buona giornata, ciao. Ciao Claudio. Pronto, eccomi qua. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao a tutti. Allora Marco, senti, allora io non posso esimermi naturalmente dal farti questa domanda, no? Cioè, com'è avere un padre che è anche un maestro nella disciplina che tu pratichi? Cioè, lo ascolti quando ti dà dei consigli? E soprattutto, quanto è ingombrante, se lo è, il cognome che porti nell'ambiente? Allora, sull'ascoltare, sì, allora diciamo tutto subito che è ingombrante comunque, inevitabilmente. Sì, in senso buono, perché alla fine la sua fama praticamente lo precede. E, se lo ascolto, sì, nel senso, nel limite di quello che un figlio può ascoltare poi da un padre, visto che non è magari un insegnante esterno e quindi ha un peso differente su quello che è il giudizio sul proprio lavoro. Quindi sì, diciamo che l'ascolto, perché l'esperienza ce l'ha, mi pare, no? E poi cerco di invece trovare magari spunti più vicini alla mia, a quello che ho bisogno, cioè proprio insegnanti esterni e tramite i suoi colleghi che sono qua, che abitano magari vicino a noi, per cui cerco di... Claudio è stato un padre, diciamo, rispettoso in questo senso, o la sua passione ha tracimato? Mi spiego, cioè, tu sei andato a bottega, diciamo così, da tuo padre, o hai fatto il tuo percorso naturalmente da solo? So che Claudio stesso non era andato a bottega dal grandissimo Franco Bignotti, sì, per imparare, sì, il mestiere. E invece nel vostro caso come si è svolta la progressione? Ma sì, io praticamente all'inizio lui mi dava delle direttive, dei compiti, diciamo, da fare, dei disegni da copiare, degli esercizi per l'inchiostro, che poi mi hanno portato ad aumentare il livello del prodotto, del mio prodotto, in vista proprio di presentarmi a una qualsiasi casa editrice o a affrontare il mondo del lavoro, che tra l'altro ho inaugurato andando alla Lucca, la mia prima Lucca, con la valigia piena di book, nella Area Pro che c'è ogni anno. Certo. Dove tanti ragazzi giovani si propongono alle case editrici. Quindi io ho iniziato così praticamente. Marco, un'ultima domanda: hai mai usato i fumetti per dire qualcos'altro a tuo padre? Cioè, quelle cose che si dicono comunque tra padre e figli, no? Magari quando eri un po' più giovane, quando eri adolescente, quindi là dove c'è il muro comunicativo con i genitori, il fumetto sì. Ti è mai stato utile come testa d'ariete? No, sono abbastanza diretto, nel senso che non è un medium che può servirmi per comunicare con lui, cioè comunque con i genitori. Insomma, comunico abbastanza, diciamo. Adesso bastava il ballone senza. Sì, senza. Ma anche meglio un sano coppino finché giocate alla play insieme. Sì. È vero. Grazie Marco, grazie davvero per essere stato grazie con noi. Voi. Ciao, grazie Marco, ciao. Claudio. Ci fermiamo adesso, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Padri Eterni. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ e oggi siamo per la prima volta sul mio canale con la Nintendo Switch. E non solo siamo sulla Nintendo Switch, ma siamo sul gioco della vita. Stiamo per giocare a Super Mario Odyssey. Ed è per questo motivo che nell'ultima settimana mi sono fatto crescere i baffi solo per assomigliare a Mario. E il risultato... FaviJ, uno dei youtuber più famosi in Italia, insomma è stato uno dei primi anche a fare questi tutorial divertenti, allegri, acchiappanti, soprattutto per i ragazzi. Lui ha usato i videogames come grande tormentone, quindi torna ai videogames e torna un gioco che unisce le generazioni. E diamo il benvenuto a Sergio Ostuni, informatico e papà di Lorenzo Ostuni, cioè FaviJ. Ciao Sergio. Ciao, buongiorno Sergio. Buongiorno a voi. Allora, cioè, tu eri uno di quei padri che diceva mettiti a giocare ai videogiochi, basta fare i compiti. No, direi così proprio no. Diciamo che lo facevo anche perché ci giocavo io, quindi lui guardava me per emulazione. Però certo che c'erano le priorità prima. Quindi torna. Il tempo libero era quello, sì. Ecco, quindi torna. Tu sei riuscito a contagiare una tua grande passione. Sì, penso che ci volesse poco, perché per contagiare un ragazzino a giocare ai videogiochi ci vuole proprio poco. Non basta che ti guarda una volta e ti spodesta all'istante proprio. E poi l'hai seguita anche in questa attività. Cosa succede quando un figlio esplode nel senso del successo? Per quanto riguarda il successo che ho avuto, non è stato proprio una cosa, cioè non è stata proprio un'esplosione istantanea, è stata una cosa talmente graduale che noi ci siamo abituati un po' per volta, anche lui penso, perché non è stata proprio una cosa così istantanea. Perché quando si apre un canale YouTube, come aveva fatto Lorenzo 4-5 anni fa, si inizia innanzitutto per passione, non con lo scopo di dover diventare uno youtuber famoso o chissà cosa, era un divertimento. E da quello poi piano piano i numeri crescevano, ma è stata veramente una cosa graduale, quindi ci siamo abituati un po' per volta, diciamo, niente di esplosivo. Sergio, poi chiaramente, dimmi. Sergio, no, guarda, ti interrompo perché sono molto d'accordo con questa cosa che stai dicendo, cioè spesso le persone, ho l'impressione, non invertono l'ordine degli addendi, esatto. Cioè vogliono fare lo youtuber o fare cioè, e hanno come obiettivo il successo. In realtà il successo può essere, non sempre lo è naturalmente, la conseguenza di un lavoro ben fatto. E un lavoro è ben fatto quando ti diverti. Io amo molto questa risposta che tu hai dato, leggevo in un'intervista quando ti hanno chiesto se il successo ha cambiato Lorenzo, e tu rispondi che davanti alla webcam è il solito pirla. E io credo che rimanere il solito pirla sia il grande segreto, in realtà, no? Perché finché ti diverti tu, si divertiranno anche gli altri. E questo vale un po' per tutte le cose, anche per chi intraprende, per chi ad esempio è un musicista e gli piace la musica, uno parte per suonare la chitarra, non è che parte per suonare la chitarra per diventare famoso a suonare la chitarra, lo fa perché gli piace fare quella cosa lì. La stessa cosa dovrebbe valere per quasi tutte le cose. Poi chiaramente, se la cosa viene, se dopo si riesce a diventare, oppure a fare un lavoro della propria passione, quella è il massimo nella vita, però non si può partire con quell'intenzione, perché è molto molto difficile. Grazie vero Sergio, ai nostri figli però possiamo dire a un certo punto di spegnere quel computer, vero? Anche se c'è FaVJ o se c'è un bel videogame. Beh, chiaro, ma anche Lorenzo quando era più piccolo, prima ci sono gli obblighi e i doveri, dopodiché il tempo libero ognuno sceglie come meglio passarlo, ma con la misura giusta, chiaramente, come per tutte le cose. Ma ancora adesso, anche se il suo lavoro, cioè, non è che vive solo di quello, si fa anche altro, chiaramente, c'è la passione per la musica, ci sono tante altre passioni. Insomma, ogni tanto ti lascia il computer libero così puoi giocare anche tu, e questa... Sì, veramente adesso si è proprio trasferito. È più facile. È molto più facile, sì. Ciao Sergio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Il papà, è arrivato un messaggio tra i tanti, ne leggo uno, mamma Rita che dice: il papà Luca, i piccoli Francesco e Adele, 7 e 5 anni, sono impegnati nell'allestimento del presepe. Già ora iniziano per tempo, perché costruiscono tutto, dipingono, è una passione del papà che ha trasmesso anche a loro. Insomma, lo preparano con la rincorsa. È un lungo lavoro, esatto. Un grazie a Laura Fagin, oggi in assistenza, un grazie a Carmelo Lauricella, la parte tecnica, un grazie a Miriam Lucchetti che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast. Padri Eterni @radio24.it invece è la nostra mail, se volete inviarci suggerimenti, critiche o quant'altro. La stessa cosa la potete fare nella nostra pagina ufficiale di Facebook. Ciao Matteo, è il momento della lettera? Sì, oggi restiamo assolutamente in tema con i fumetti, perché la nostra lettera aperta è indirizzata a Dylan Dog. Wow! Lettera aperta a Dylan Dog. Caro Dylan, questa settimana, in seguito all'uscita della tua nuova storia, sei stato accusato di essere a favore della fantomatica teoria gender e contrario a chi manifesta a difesa della cosiddetta famiglia naturale. Lo so, l'accusa fa abbastanza ridere, perché entrambe le cose, come noto, non esistono. Essendo la teoria gender solo uno spauracchio agitato da alcuni per alimentare l'omofobia e la discriminazione. E la famiglia naturale è un ossimoro, essendo la famiglia, per definizione e da sempre, un concetto culturale. Fa ridere anche perché tu ti occupi, invece, delle cose più concrete di tutti: gli incubi. Un incubo ricorrente, per esempio, è che per certe persone i fumetti devono restare decontestualizzati dalla realtà. Devono parlare di avventure lontane, di storie d'evasione, possibilmente senza dare troppo fastidio. Invece, sorpresa, i fumetti parlano soprattutto del mondo che ci circonda, e lo fanno da sempre. Per questo non è strano che tu, paladino fin da tempi non sospetti di ogni minoranza, sia contrario all'implicita discriminazione di chi pensa di fondare il proprio diritto all'amore e alla famiglia sulla negazione dei diritti altrui, chiedendo al contempo rispetto per le proprie idee e senza accogliere, in questo, alcuna contraddizione. Per questo l'unica cosa che mi sento di dirti, da inventore di storie, da lettore e pure da padre, è: le storie migliori non sono finestre, sono specchi. E se quel che ci mostrano non sempre ci piace, forse faremo meglio a rivolgere a noi stessi una domanda in più e a puntare qualche dito in meno.